Un uomo vestito di una corta giacchetta azzurra saliva su per la collina ed emerse da una macchia di bambù. Era un tiratore di rickshaw, veniva dalla casa del padre di Tamà e quando fu davanti a loro si inchinò dicendo: «Sono stato mandato per sapere come state». «Come stanno mio padre e mia madre?» domandò Tamà. «Tutti salvi!» rispose l'uomo. «La cancellata dell'ingresso è crollata con una parte della cucina e in quanto al giardino non sappiamo ancora bene, ma il corpo principale della casa è intatto e nessuno è ferito, salvo la giovane signora che era in cucina. È colpita una coscia da una trave, ma ora riposa e il dolore si è calmato. Il padiglione dei tè di cerimonia è intatto». «Ah, come siamo fortunati!» esclamò Tamà. S'alzarono. Aiwan non poté far altro che voltarsi e guardare i resti di quella che fino a pochi momenti prima era stata la loro casa. Tamà seguì il suo sguardo. «Potremmo facilmente ricostruirla», disse. «Non qui», disse lui, senza sapere bene il perché di quella risposta, ma Tamà insistette: «Sì, qui. Il mare ha tentato di raggiungerci, ma non ci ha raggiunti. È un buon posto, questo, per ricostruire». Aiwan era troppo scosso per affrontare una discussione e la seguì con Jiro in braccio giù per il fianco della collina, preceduti dall'uomo che faceva da guida, perché non c'era più traccia della strada. Dietro veniva la domestica con le braccia piene di tutto quello che giudicava abbastanza prezioso per essere trasportabile. Dal principio alla fine non aveva aperto bocca. Aiwan non si scordò più quel giorno. La salvezza della casa dei Muraki, il conforto di un tetto, la disponibilità di cibi caldi e pronti, la tranquillità in tanto disastro, c'era davvero di che gridare al miracolo, ma specialmente indimenticabile fu il silenzio del signor Muraki mentre camminava nel giardino invaso e devastato dall'acqua, che irrompendo attraverso le brecce aperte nel muro di cinta aveva spazzato via i perfetti declivi erbosi e strappato piantine nane di inestimabile valore. Fu il silenzio della stessa Setsu nel dolore. Aiwan non conosceva bene la moglie di Bungi, ma i suoi occhi, belli in un volto non bello, gli restarono indelebili nel ricordo. Fu infine il silenzio della gente nelle vie, della gente che aveva perduto casa e familiari, persino il modesto impiegato che lavorava nell'ufficio di Aiwan era rimasto solo ora dopo la morte del fratello nel disastro. Il giorno seguente la vita riprese ovunque. Si costruivano case, si liberavano le vie dai rottami, si rialzavano i muri di difesa lungo il lido devastato dal mare. Tutti lavoravano di lena come a un compito vecchio e familiare. Tamà disse: «Ora che dobbiamo ricostruire, tanto vale che si ricostruisca la casa più grande». Aiwan si vergognò della propria domanda. «Ma se il disastro si dovesse ripetere, e non una volta soltanto?» «Accada che vuole, potremo sempre ricostruire», fu la risposta. Egli non ebbe cuore di lagnarsi della propria disavventura quando in tutta la città la gente tornava alle proprie case in rovina e i mancanti succhiati via dal mare. In quei giorni egli si sentiva irresistibilmente attratto verso i quartieri della città immediatamente sulla spiaggia. «Ricostruisci la casa nel medesimo posto dove quella vecchia ti è stata portata via?» domandò a un vecchio pescatore. L'uomo lo guardò con cupi occhi neri. «E dove potrei altrimenti costruirla?» rispose. «La casa di mio padre era qui e quella di mio nonno anche». «Ma se il disastro si ripete?» «Si ripeterà, lo sappiamo che si ripeterà». Quel pensiero assunse per Aiwan un significato di gran lunga più vasto di quanto gli potesse esprimere lì per lì, e gli parve ora di vedere Tamà con assai maggior chiarezza che non in passato. Dietro i suoi modi, dietro la sua allegria, c'era qualcosa di disperatamente risoluto, qualche cosa di impersonale, di tipicamente giapponese, come in lei, dietro lo spirito scherzoso della gente che sapeva divertirsi infantilmente, c'era anche una tenace risolutezza che la metteva in grado di sopportare non importa quale necessario sacrificio. Anni dopo, quando sentì giurare che la guerra sarebbe presto finita, gli scuoteva il capo. No, la guerra non sarebbe presto finita. Forse non sarebbe finita mai. Quegli isolani erano stati temprati da nemici più tremendi dell'uomo. Essi avevano combattuto il terremoto, il fuoco, il tifone, nemici tutti che essi si erano allenati a combattere in lunga guerra. Aiwan fu sempre orgoglioso del contegno dei suoi due figli che né avevano pianto né avevano mostrato di aver paura. Non era una guerra. I giornali lo ripetevano a distesa. La parola guerra era proibita. Non si trattava, nel nome dell'imperatore, che di un semplice incidente. Certo, a Taiwan la tensione cino-giapponese pareva meno importante del fatto che quell'estate egli aveva aggiunto alla casa ricostruita 2 anni prima, sulle rovine di quella abbattuta dal terremoto, uno studio tutto per sé, con pareti di solido legno non facilmente asportabili. Tamalo aveva incitato a quella giunta, dato che i ragazzi crescevano ogni giorno più esuberanti. Aiwan, diceva Tama, doveva avere un rifugio tutto per sé. E quando un giorno gli scoprì che i ragazzi, mentre Tama faceva il bagno e la fantesca era occupata nel preparare la cena, gli avevano preso la colla e gli avevano imbrattato con essa tutta la scrivania, si arrese alle sollecitazioni della moglie. Era un piacere ora avere una stanza tutta per sé. I giornali, del resto, facevano poco conto dell'ultimo incidente successo in Cina, una rissa fra pochi soldati giapponesi e alcuni abitanti di una piccola città del settentrione. Non durerà 3 mesi, aveva dichiarato Bungie sin dal primo giorno. Quella frase fece supporre a Daiwan che l'incidente fosse più grave di quel che si diceva, perché, diversamente, i disordini avrebbero dovuto durare 3 mesi. Aspettò lettere da suo padre, ma il vecchio ora scriveva con minor frequenza di un tempo. Aiwan scrisse e riscrisse, ma non ottenne risposta. La cosa pareva strana. Un giorno il piccolo impiegato del suo ufficio si dimise. Nonostante fosse l'unico sostegno di sua madre, era stato chiamato, così disse, a compiere il servizio militare. Che cosa farà vostra madre? Domandò Aiwan. Oh, il signor Muraki è molto generoso, rispose l'impiegato che si chiamava Tanaka. Egli corrisponde un sussidio settimanale alle famiglie di tutti gli impiegati chiamati a combattere per l'imperatore. Due giovani donne lo sostituirono in ufficio e fra esse e Daiwan fu eretta una tramezza, così che ora Aiwan poteva illudersi di stare in uno studio tutto per sé. Del resto, aveva molto tempo a propria disposizione ora, gli affari cominciavano a languire, le spedizioni si facevano più rare e anche questo rendeva Aiwan perplesso. Se il compito affidato alle truppe in Cina era davvero limitato, perché gli esportatori cinesi avevano subito sospese le esportazioni verso il Giappone? Le navi andavano e venivano, ma di affari la casa Muraki non ne faceva quasi. Fortuna che aveva grandi depositi di roba invenduta dai quali attingeva per le spedizioni verso l'Occidente e verso l'Europa. Aiwan si occupò del controllo degli inventari e del lavoro di imballaggio e di spedizione di stuoie, tappezzerie, vasellami, pannelli, un misto di cose preziose e di paccottiglia che nel complesso costituiva gli affari della casa. Poi un bel giorno gli arrivò un telegramma da suo padre. Dopo, ripensandoci, gli parve strano che il dispaccio fosse giunto per il tramite di Bungie. Lì per lì, tuttavia, non ebbe tempo di pensarci. Una mattina Bungie lo mandò a chiamare e quando egli andò a vedere di che si trattava, il cognato gli consegnò una busta e rimase a guardarlo mentre egli l'apriva. Il telegramma veniva da suo padre, diceva: Aiko arriva il 17 a Yokohama, nave Balmoral, recati a incontrarlo. Il 17 era di lì a 2 giorni. Arriva tuo fratello? Domandò Bungie. Come fai a saperlo? Domandò a sua volta sorpreso Aiwan. Oh, mio padre desidera inviare un regalo a tuo padre se tuo fratello vorrà gentilmente incaricarsene, rispose obliquamente Bungie. Come sapeva il signor Muraki? Ma dal telegramma, naturalmente, rispose con calma Bungie. Il telegramma portava l'indirizzo di casa nostra ed egli lo ha letto. Perché? Per sapere se c'erano dentro delle cose importanti, ribatté Bungie affettando sorpresa. Aiwan avrebbe voluto far osservare che il telegramma era indirizzato a suo nome, ma gli parve che quel rilievo avrebbe potuto suonare scortese per il signor Muraki, il quale forse Non aveva sospettato di far male, perciò si limitò a incaricare Bungie di ringraziare il vecchio suocero. S'accorse mai in quel momento che Bungie lo guardava con un'espressione strana? Immagino che sia necessario che tu vada incontro a tuo fratello, continuò Bungie. Certo che lo è, rispose con fermezza Aiwan. Aveva avuto lì per lì una mezza idea di portare con sé Tama e i due figlioli per presentarli a uno della propria famiglia, ma ora, uscendo dall'ufficio di Bungie, cambiò parere. Meglio incontrare Aiko a quattro occhi. Mentre la nave entrava in porto proveniente dall'America, con la lenta grazia di un gigantesco cigno, Aiwan ne seguiva i movimenti allungando il collo per veder meglio. Lì per lì non corse subito allo scalandrone di sbarco. Un'improvvisa soggezione di Aiko lo aveva preso. Lui e suo fratello non erano mai stati intimi. Aiko era molto più anziano e Aiwan si ricordava ancora che Peonia lo aveva odiato per certe cose delle quali non aveva mai voluto parlare. Quell'odio aveva da lunga pezza dato ad Aiwan il sentimento che Aiko fosse misteriosamente cattivo e anche in quel momento gli impediva di volergli bene. C'erano poi stati gli anni di Germania, quali influssi avevano essi avuto su Aiko? Ciò nonostante, anche lui era ansioso e un po' eccitato al pensiero che fra poco avrebbe riveduto il fratello. Per la prima volta ebbe il senso della lunghezza del tempo trascorso lontano dai suoi. La nave attraccò. Aiwan scrutava con gli occhi la gente appoggiata ai suoi parapetti, ma non riconobbe nessuno. Improvvisamente vide scendere Aiko lungo lo scalandrone. Quasi non credeva ai suoi occhi. Quella linda e retta figura era l'Aiko di anni prima, il giovinotto equivoco partito con le labbra atteggiate a petulanza e che faceva i capricci come un bambino quando gli si negava qualche cosa e magari piangeva per spontarla. Che cosa aveva fatto di lui la Germania? Aiko lo vide e lo salutò con un grido. Eccolo! Era di alta statura, sovrastava di almeno un palmo i giapponesi che gli formicolavano attorno. Aiwan notò subito la sua espressione decisa, la bocca ferma, gli occhi alteri, il portamento non giapponese di suo fratello. Dietro di lui veniva una donna bianca vestita in un abito di lucida seta verde, nude le braccia fino all'attacco della spalla. Aiwan non la notò subito. La gente faceva ressa ai piedi dello scalandrone. Aiwan si avvicinò ad Aiko e gli offrì timidamente la mano. Aiko, disse. Aiwan! Esclamò Aiko, poi afferrò per un braccio la donna bianca che lo seguiva. Frida, le disse in tedesco, ecco mio fratello. Aiwan poco ricordava del tedesco appreso molti anni prima dall'istitutore che il nonno aveva stipendiato per lui, ma chi fosse quella donna ora non capiva. Guardandola, sentì immediatamente di odiarla. Sebbene fosse ancora giovane, era già troppo grassa e le gote erano troppo rosse, in contrasto con le guance ruvide, gli occhi erano di un duro azzurro e i capelli sotto il cappello verde erano più gialli che biondi. Ella distese una mano inguantata di pelle gialla. Ah, molto lieta di incontrarvi! Esclamò con voce forte. Aiwan sentì la sua mano nella forte stretta della donna, poi la grande scossa dall'alto in basso e finalmente, con sua costernazione, la vide protendersi verso di lui e sentì le labbra dipinte sulle gote. Fratello Aiwan, disse, e rise come una bambina. Mia moglie Aiwan, disse alteramente Aiko, Frida von Reichhausen, figlia di un alto ufficiale tedesco. La sua voce, il suo sguardo, ammonivano Aiwan, non senza un'espressione di sfida, a non fare apprezzamenti inutili. Ma, pensò Aiwan, non c'era niente da dire. Se erano marito e moglie, non giovava criticare, perciò si limitò ad un breve inchino. Ma nel cervello gli ridavano mille domande. Suo padre sapeva? Che cosa avrebbe detto a sua madre? Perché Aiko aveva fatto quel matrimonio? Poi si ricordò di Tamà che per tutti quegli anni si era rifiutato di portare nella casa dei suoi. Se mai avesse detto ad Aiko una parola di disapprovazione, non c'era caso che suo fratello di rimando gli rimproverasse di aver sposato una giapponese? Eppure Tama, per istinto sentì che Frida non meritava di essere paragonata a Tama. Siamo sposi novelli, disse la moglie di suo fratello. Tutto qui è meraviglioso! E di nuovo rise, guardandolo con la fronte aggrottata. Aiwan pensò: non devo guardare Aiko. Costei è così sciocca che egli si vergognerà ad avermela presentata. Ma sentiva che doveva pur dire qualche cosa per non mettere in imbarazzo Aiko. Erano lì in gruppo sul passaggio della gente che li urtava da tutte le parti. Ma che cosa poteva mai dire Aiwan? Era ancora sbalordito. Cavò di tasca il fazzoletto e s'asciugò la faccia. Furtivamente nel gesto si strofinò la gota nel punto dove la cognata aveva posato le labbra. Aiko, disse finalmente, non ti riconoscevo quasi più. Parlava cinese, ma sentiva la lingua intoppata in bocca. Da anni era fuori d'esercizio. Ma ora era contento di parlare cinese, perché questo almeno lo isolava da quella donna straniera. Aiko assunse un'espressione compiaciuta. Sono cambiato, rispose, e non sono forse cambiato in meglio? Sembri più vecchio, osservò con diffidenza Aiwan. Ora sono un uomo, rispose con un lieve sorriso Aiko. E sono molto riconoscente a nostro padre. Durante i miei primi anni in Germania odiavo i tedeschi, ma poi imparai ad amarli. Ma dove possiamo parlare, Aiwan? Ho molte cose da dire e la sosta della nave è molto breve, un'ora invece di quattro, dopodiché proseguiremo per la Cina. Ma non puoi trattenerti alcuni giorni per proseguire poi con un altro piroscafo? Domandò urbanamente Aiwan, pensando però con terrore all'eventualità che Aiko avesse potuto accettare trattenersi con lei. Aiko scosse il capo. Non possiamo, urge che io arrivi a casa. Ma dove possiamo rifugiarci? Aiwan indicò un piccolo ristorante lì a due passi. Aiko accettò subito con vigorosi cenni del capo. Sedettero insieme a un tavolino esterno e Aiwan sentì subito su di loro gli sguardi della gente. Una donna bianca con due cinesi. Ma Aiko sembrò non farci caso. Birra, ordinò Aiko al cameriere e senza oltre attendere si protese verso Aiwan. Aiwan, disse, tu non puoi restare qui, devi venire subito a casa. Parlava cinese senza badare a sua moglie, la quale tuttavia sembrava abituata a quel trattamento. Per distrarsi mentre i due parlavano, guardava in giro con occhi duri e attenti. Se le dispiaceva che la gente la guardasse con curiosità, non tradiva in alcun modo il suo disappunto. Ma, balbettò Aiwan, sentendo gli occhi del fratello fissi su di sé. Si ritrasse un poco. L'espressione di Aiko si era fatta quasi minacciosa. È impossibile. La mia famiglia. Possibile che neppure tu sappia? Che cosa? Domandò Aiwan. Il vecchio presentimento lo afferrò alla gola, sentì la bocca improvvisamente secca. Non hai sentito? Esclamò Aiko. Non ho sentito niente, balbettò Aiwan. I giapponesi, sussurrò Aiko, stanno per occupare Pechino. Pechino? Ripeté come istupidito Aiwan. Non si è detto nulla nemmeno di questo qui, vero? Volle sapere Aiko. Attorno a loro la folla giapponese chiacchierava e rideva seduta ai tavolini, bevendo vino e tè. Il cielo in alto era azzurro, senza una nube. Si vedevano donne in vistosi kimono e là, in un canto, sedeva un gruppo di americani intenti a bere tè con un ufficiale del piroscafo. Accanto ad Aiko e ad Aiwan sedeva la donna tedesca coi forti gomiti sul tavolo. Aveva già bevuto la sua birra e ora sgranocchiava pasticcini. Qui si è detto che si trattava di movimenti di truppa senza importanza, rispose Aiwan, distogliendo gli occhi dalla donna. Improvvisamente pensò che forse qualche cosa gli era sfuggita. In quei giorni non leggeva sempre i giornali, ma Aiko continuò, implacabile. Il babbo previde ogni cosa sin da alcune settimane addietro e mi telegrafò di accorrere. Il generalissimo ha bisogno di me in patria. Si sta riorganizzando l'esercito su vastissima scala in vista della guerra. Noi resisteremo fino all'ultimo uomo. La decisione finalmente è stata presa. Aiwan non poteva quasi capire quello che Aiko gli andava dicendo nel suo rapido e sussurrato cinese. Ma qui nessuno ne sa nulla, balbettò. Era senza fiato. I giornali non hanno pubblicato molte notizie e la gente tira avanti come il solito. Si limita a parlare di certe difficoltà, ma non. Che Gente è mai questa, disse con disprezzo Aiko. Chi comanda tace. Ti ripeto che in Cina la mobilitazione è in corso. Sarà la più grande guerra della nostra storia, Yuan. Vieni in Cina con me. Ora, mormorò Yuan. Ora, esclamò con forza Aiko. Ho denaro quanto basta per pagarti il biglietto. All'occorrenza potrai munirti del biglietto a bordo. Il babbo mi ha detto. Ma la mia famiglia, cominciò Yuan. Non hai doveri che verso il tuo paese, insistette Aiko. In quanto ai giapponesi, ti spetta l'obbligo di odiarli finché avrai vita. Così dicendo, mostrava i denti bianchi e quasi ringhiava come una volpe irosa. Persino in quell'istante, guardando suo fratello, Aiwan si ricordò che gli piacevano gli atteggiamenti drammatici e quel pensiero lo rese più cauto. Tama, si disse, Tama era giapponese e lui l'amava. Ella appariva più che mai dolce e buona e fedele ora che Aiko aveva sposato un tipo come quello. Aiwan non poteva lasciare Tama, doveva bene riflettere prima di agire. Non capisco, disse, non riesco a vedere perché dovrebbe esserci la guerra, non siamo mica nemici. Lo siamo, rispose duramente Aiko. In che mondo vivi, Aiwan? Per non sapere che questa guerra ci è stata imposta da mesi, da anni, hai sentito parlare dell'oltraggio di Lu Kochao? I giornali hanno scritto che sarebbe stato risolto pacificamente. Già, risolto, con l'occupazione di Pechino, rispose con calore Aiko. Ti ripeto che questi giornali non ne hanno dato alcuna notizia, balbettò Aiwan. Ma il matrimonio ti ha fatto giapponese? Domandò Aiko. No. No, s'affrettò a rispondere Aiwan. No, ma la cosa mi arriva così improvvisa. Mai saputo niente prima e da casa nessuna lettera. Perché non domandò ad Aiko? E tu sei diventato tedesco? Ma non voleva che suo fratello rispondesse, almeno mia moglie non è giapponese. Come mai? Lo interruppe Aiko. Le lettere non arrivano in Giappone senza che qualche censore le scruti. Sono certo che il babbo ti ha scritto e che le sue lettere non ti sono mai pervenute. Mi telegrafò per dirmi di non riuscire a capire perché tu scrivevi come scrivevi e per raccomandarmi di far scalo qui per vedere che cosa diavolo capita. Mio suocero mi disse una volta di aver saputo che il babbo andava in viaggio nello Sichuan per organizzare, non so che succursale della banca, esclamò Aiwan. E questo mi parve spiegasse il ritardo dell'arrivo delle lettere. Non c'è giapponese di cui tu possa fidarti. Dichiarò Aiko. Vieni, Aiwan. Rimasero a discorrere più a lungo di quanto avessero supposto, con lunghe pause di silenzio. Quando tacevano, la tedesca faceva domande su quel che vedeva. Una volta osservò che quei piccoli giapponesi erano buffi. Qualunque cosa dicesse, era Aiko che le rispondeva. Mai, Aiwan, che non l'udiva quasi, tutto assorto in pensieri tristissimi. Il pomeriggio s'era fatto tardo e il sole era ormai occiduo. L'ora era passata, la tedesca sbadigliava e quando si alzarono, precedette i due fratelli verso la nave. Anche gli americani si preparavano ad imbarcarsi, le loro voci chiare e taglienti si rispondevano da un tavolino all'altro, si vedeva che parlavano come se non ci fossero che loro. Due partivano con un ufficiale di bordo, gli altri rimanevano. Una ragazza carina gridò: State attenti voi due a Shanghai. Tu, Rosso, levati il cappello quando cominceranno le incursioni aeree e fai vedere le tue chiome fiammeggianti, così gli aviatori non ti scambieranno per un cinese. Il giovanotto dai capelli rossi, a cui erano rivolte quelle parole, rise: Ciao, Molly. Mi spiace che non venga anche tu, ma temo che la Cina non sia a posto per le ragazze oggi come oggi. La sirena della nave lacerò più volte l'aria col suo richiamo. Li senti? Domandò Aiko. Tutti sanno come vanno le cose laggiù, eccetto questa stupida gente giapponese. Aiwan, centinaia di poveri diavoli sono stati uccisi e le cose peggioreranno ancora. Tutta la Cina deve risvegliarsi e noi dobbiamo combattere come non abbiamo mai combattuto. Erano ormai sul molo. Aiko si fermò su due piedi. Vieni, domandò. Non posso, rispose Aiwan. Non ora, non così. Perché no? Non posso lasciarli così. I miei suoceri sono stati buoni con me. Sono giapponesi, gli ricordò all'orecchio Aiko. Sono stati buoni con me, ripeté Aiwan. E allora senti, ribatté Aiko, Come fratello maggiore che ti parla in luogo di nostro padre, ti dico che devi venire non appena potrai, cioè fra giorni, non fra settimane. I want. L'equipaggio s'affaccendava sui ponti. I passeggeri salivano su per lo scalandrone d'imbarco. Fra ore meglio, ripeté Aiko. Se c'è un paese dove non puoi rimanere, questo paese è il Giappone. È indecente. Gli appoggiò una pesante mano sulla spalla e lo scosse un poco. Addio dunque. Ci rivedremo fra qualche giorno. Nel frattempo ti scriverò subito la verità su tutto quello che vedrò. Aiwan non rispose. La nave si muoveva già ed egli restò a guardare. Vide la moglie di Aiko che dal ponte lo salutava agitando la mano inguantata di giallo. Egli si levò il cappello e si inchinò. La nave si staccò, volse la prua a sud e poi a ovest. Non aveva domandato nulla ad Aiko e più che mai si sentiva lontano da lui.